voglia di te. Ma chi sarà il colpevole? È un gioco che solo tu puoi vincere. Giochi all'amore, stasera con me. Una notte italiana, tu non sei più lontana. Pelle mediterranea, ehi ehi yeah. Non avere paura, chiedi pure alla luna se sarà un'avventura, ehi ehi ehi ehi yeah. Fa fa fantastico, io vado al massimo. È come un'altalena, muovi quel fondo schiena. Fa fa fantastico, ritmo bombastico. Godiamoci la vita, la notte è infinita. Fa, fa, fa, fantastico. Fa, fa, fantastico. È un attimo battito romantico. Un livido fisico galattico, che sarà un velo di malinconia. Non so se resti o devi andar via. Una notte italiana, tu non sei più lontana. Pelle mediterranea, ehi ehi yeah. Non avere paura, chiedi pure la luna se sarà un'avventura, ehi ehi ehi ehi yeah. Fa fa fantastico, io vado al massimo. È come un'altalena, muovi quel fondo schiena. Fa fa fantastico, ritmo bombastico. Godiamoci la vita.